Credo che possiamo cominciare chiedendogli come è nata l'idea dei loro lavori, come sono partiti, e il loro approccio registico, insomma, la loro idea di regia, e quindi come hanno affrontato questi due lavori. Cominciamo con Vincenzo Notaro, Mani Fasciate. Buonasera. Buonissimo, sono io. Vabbè, no. Come inizia il progetto? Il progetto inizia nel 2010 il lavoro di Mani Fasciate, che ha come protagonista Mario Pisanti, pugile professionista e ex atleta della nazionale, per un incidente stradale nel 2004 si è giocata la sua possibilità di andare alle Olimpiadi di Atene, e faceva parte di quella squadra di pugili che oggi li vediamo spesso in televisione: Cammarelle, Russo, quindi Valentino. Era uno di quel gruppo molto promettente del pugilato italiano, e quindi fece questo incidente. È stato per 4 anni fermo. Nel 2008 inizia di nuovo a rientrare nel pugilato dopo 4 anni di fermo, e io lo conosco proprio in quel periodo e mi interesso alla sua storia, e dall'inizio ci vedo qualche spunto per una storia che non era proprio che non volevo che fosse proprio una storia che raccontasse l'impresa, solo l'impresa sportiva, ma la sua difficoltà nel rientrare di nuovo nel pugilato ed emergere in una città di provincia come Latina, che ha poco da offrire a livello sia sportivo che anche sociale. E Mario in quel periodo, quando ha iniziato a fare le riprese, faceva un lavoro precario di parcheggiatore, e quindi mi interessava questa sua condizione. E tra l'altro quando ha ripreso aveva un bambino, era nato appena un bambino, conviveva con la sua compagna Valeria. E quindi era un po' tutto difficile di iniziare a fare pugilato con problemi, cioè non proprio problemi, però sì. E quindi mi interessava questa cosa, e questa sua tenacia ancor di più, cioè nel perseverare in questo obiettivo che si era posto di rientrare a fare il pugilato e conquistare un titolo italiano, per sopperire a quella delusione che erano le Olimpiadi. Questa è un po' la storia del documentario. La tua impostazione di regia, la tua idea di regia applicata a Mani Fasciate è caratterizzato da immagini ben precise, determinate, la città e anche le inquadrature delle interviste sono studiate in una certa maniera. Ma non è che c'era proprio una vera e propria idea di regia nel documentario. Avevo scritto un soggetto per un premio, il Latina Film Fund, un premio, un fondo per documentari indetto dalla Latina Film Commission, che aveva come tema quello di raccontare personaggi e luoghi della provincia di Latina. Io avevo conosciuto Mario, quindi ho scritto un piccolo soggetto, e con quello ho vinto questo premio, e da lì poi sono partito con le riprese. Però non c'era un'idea di regia, cioè io ho conosciuto Mario e poi mi sono fatto un po' trasportare da lui nel suo mondo, No, io osservavo solo quello che lui osservava lui, cioè quindi tutto quello che ruotava intorno a lui durante il giorno, al lavoro, durante gli allenamenti, nei momenti di intimità, quindi un po' le cose sono venute. Io avevo idea una linea di scrittura, una linea di scrittura. E ho seguito quella, però l'idea di regia è nata un po' nel momento in cui facevo le riprese, e quindi alcune immagini le notavo proprio mentre filmavo Mario, e quindi le immortavo in quel momento, ecco. Non è che mi ero preparato nulla, cioè non andavo col compito. Sì, cioè proprio, vabbè, perché Mario lavorava in un posto un po' particolare. Lui lavorava in un parcheggio di un centro commerciale incastonato intorno a dei palazzi. Quindi diciamo, immagino un po' che si vede pure nel documentario. Nella Latina nuova, però. Nella Latina, diciamo, semi-nuova. Cioè subito dopo Latina del Duce, sì, c'è Latina, diciamo, anni 60-70. Sì, e lì, proprio in quel, penso, racconto un aneddoto, e proprio nel parcheggio dove lavorava Mario, che vedrete poi nel documentario, lì c'era la vecchia casa del contadino, fatta durante l'epoca fascista, dove il suo primo maestro, che vediamo nel documentario, di pugilato, si allenava. E poi, dopo negli anni 60, quella casa l'hanno buttata giù ed è diventato poi il complesso residenziale e un centro commerciale dove poi Mario ha lavorato. Quindi sì, diciamo, è una parte di Latina recente, cioè, chiamiamola recente. Sì. Allora, stessa domanda a Vincenzo Mineo, però lui da parlare di due documentari, visto che ne ha due qua. Sì. Quindi la tua idea di regia applicata a questi due documentari, e da dove è partita l'iniziativa e l'idea dei lavori? Ok. Allora, Cargo, l'idea di Cargo nasce, entrambi i documentari nascono da un'esigenza precisa, da questioni personali, perché sia mio padre che mio nonno navigavano su queste navi e facevano questo lavoro. Ovviamente mio nonno non esattamente in delle petroliere di questo tipo, perché ancora non c'erano, lavorava su delle navi da carico o su dei grossi pescherecci, e invece, per circa 40 anni lo ha fatto, e mio padre per circa 30 invece su navi proprio esattamente come questi, ovviamente meno automatizzate, però esattamente navi come questi, quindi delle petroliere. E io stesso da praticamente quando sono nato fino ai 13-14 anni, con mia madre e mia sorella, quando c'erano le vacanze estive o di Natale, se non era mio padre a scendere a terra, andavo io a bordo, quindi conoscevo molto bene quella realtà, o perlomeno me la ricordavo, avevo memoria di quella realtà. Quindi prima che mio padre andasse in pensione ho fatto il tentativo attraverso lui di chiedere all'armatore la possibilità di andare su una di queste navi con una mini truppa, operatore fonico, eravamo in tre. Mi è stata accordata questa possibilità, e quindi siamo stati a bordo di una di queste petroliere, facendo un viaggio da Rotterdam a San Pietroburgo andata e ritorno. Quindi siamo imbarcati a Rotterdam, siamo risbarcati da Rotterdam. Il viaggio è durato 20 giorni ed è stato dal 10 al 30 dicembre del 2009, quindi Natale compreso, infatti vedrete anche il Natale a bordo. E ovviamente per me significava ricordare, un discorso di memoria, un discorso di vissuto personale, eccetera, dove io anche nell'altro lavoro poi ne parlerò, insomma, in entrambi i casi comunque non c'è stata una progettualità, cioè non c'è stato un progetto scritto, c'era soltanto in qualche modo sì un'idea di quello che avrei voluto, però poteva in qualsiasi momento essere disattesa questa idea, cioè rispetto a quello che avrei trovato a bordo, la disponibilità della gente a parlarmi oppure no, cioè io non sapevo quello che avrei trovato, se la gente era disponibile oppure no. Invece questa disponibilità c'è stata, forse io magari più tra virgolette romanticamente mi immaginavo più la gente mi parlasse come mio padre o mio nonno dell'amore per questo lavoro, del mare o delle avventure eccetera, e invece loro tutti quanti mi parlavano della distanza dalla terraferma, la difficoltà di questo lavoro, e quindi è diventato più quello il documentario, cioè un documentario su un viaggio, su una nave, su delle atmosfere eccetera, ma per quanto riguarda le parole dette dai marinai che lavorano a bordo, dagli ufficiali, fondamentalmente avevano tutti quanti una linea comune, che era quella del sacrificio, della lontananza dalla terraferma, anche perché le navi adesso, rispetto a quando mio padre navigava, non stanno più a terra per una settimana per il carico e lo scarico, e quindi uno può scendere, può vedere un posto e può stare nei famosi locali attorno al porto, eccetera. Non c'è più tutto questo, perché la nave si ferma, sta un giorno e mezzo, il carico è molto rapido, quindi molti di loro nemmeno scendono a terra. Non c'è internet, solo se il telefono cellulare, satellitare, puoi parlare con i tuoi familiari. Questi riuscivano a parlare con i loro parenti una volta ogni due mesi, cioè stanno a bordo per un anno e mezzo. Quindi stiamo parlando di condizioni molto particolari, lo sentirete, lo vedrete nel documentario, di gente che dice: io un anno e mezzo che sto qua, è nato mio figlio e ancora non l'ho visto. Cioè stiamo parlando di queste cose, e quindi queste sono le cose che mi hanno detto, ed è stata anche la forza del documentario, perché sottolinea ancora di più, ovviamente, una situazione di isolamento, che la nave isola in mezzo al mare, ma anche l'isolamento e l'alienazione di questa gente a bordo di una nave che fa questo tipo di lavoro. Zavorra è un documentario invece girato praticamente a casa mia in Sicilia, a Trapani, in un ospizio, e il concetto è uguale: è una situazione di persone isolate in un posto, che vivono isolate in comunità in un posto, quelli per lavoro, questi perché così è per loro, così è la vita. Anche il posto di per sé è in qualche modo isolato, perché è un ospizio che sta tra le saline e il mare, quindi è un'isola anche quella, dove vive questa comunità di persone, che sono le persone anziane, e che anche lì, come faccio io a progettare una cosa entrando lì e parlando con loro? Perché ovviamente tu arrivi lì dentro, cerchi di avvicinarti a loro, e loro, rispetto a come stanno mentalmente, come stanno rispetto alla loro o non malattia, eccetera, ognuno se ne esce a modo suo. Cioè, ovviamente io non facevo interviste né a bordo della nave né all'interno dell'ospizio, non ho fatto mai interviste, non ho fatto mai domande. Ricevevo da loro le cose che avevano, se avevano voglia di dirle, me le dicevano. E ancora di più per gli anziani, perché è lì che gli chiedo, se quello poi magari mi risponde in un altro modo. Quindi a maggior ragione stavo lì ad ascoltare, e ognuno se ne esce nel suo modo, ma anche lì però c'è un filo conduttore, c'è quello che va lì, ci fermi un attimo e ti comincia a dire: io sono qua da un anno, 8 mesi, 8 giorni, quindi scandisce un tempo. C'è quello che invece continua a ripetere tutte le volte che mi fermavo davanti a lui per tutti i giorni la stessa cosa, cioè: mia figlia mi ha presa e mi ha scaricata qua, e io invece volevo stare a casa. Quindi fondamentalmente poi alla fine quello che hai, come se lì avevi quell'alienazione, anche qui ce n'è un'altra, che naturalmente, cioè istintivamente, data dalla loro condizione. Però queste due cose, anche secondo me questo approccio, questo modo di girare, e quindi ti parlo del modo di girare, io non è che avevo un'idea registica, ovviamente sono due linguaggi diversi, perché se Cargo mi dava più la possibilità di fermarmi a cercare un'inquadratura, perché era tutto talmente lento, tu entravi in un porto di Rotterdam, ci stavi mezza giornata, quindi tu avevi tutto il tempo di cercare il tuo taglio, la tua inquadratura. Quindi su Cargo vedrete un linguaggio un po' più formale, inquadrature più precise, eccetera. Su Zavorra, al centro anziani, non è più così, e dove in quel modo sentivi istintivamente di avvicinarti, allora vedevi uno che stava lì, cioè vediamo questo, forse magari ci c'è. Quindi è tutto più, ovviamente, più mosso, più istintivo, però fondamentalmente, al di là di questi linguaggi creati dal girarlo, un po' come diceva lui, che io avevo un'idea, però poi vai là e ti lasci un po' portare dal tuo personaggio e dai miei, che sono più corali, il tuo è più su uno, il mio è più corale, però queste due coralità, ripeto, ci danno in qualche modo, ovviamente, un filo comune. E su Zavorra probabilmente il discorso della fine della vita, dell'abbandono, un po', ovviamente più duro come documentario rispetto a quell'altro. Va bene, riguardo proprio al tempo del documentario, il tempo, la linea temporale stesso dei due lavori, io ho visto in Cargo questa sensazione di entrare in una realtà dove il tempo non è più quello nostro, e che il film stesso avesse finito per assorbire all'interno della sua stessa struttura compositiva questa dilatazione, in sostanza, che fosse passata dalla vita della nave direttamente nella forma del documentario, e fosse finito per diventare una caratterizzazione formale del documentario, a partire forse dalla prima immagine, che comincia subito con un rallenti della partita di ping pong. Cosa ci può dire di questa? Sempre per il discorso di lasciarti a secondo questo metodo di lavoro, per cui tu assecondi il metodo di ripresa, assecondi il linguaggio, l'estetica, è assecondato rispetto a quello che hai davanti. Ovviamente tu lì su Cargo ti trovi in una situazione dove tutto non è reale, cioè non appartiene alla realtà, è tutto più dilatato. Il viaggio in una nave petroliera non è il viaggio di una nave passeggeri, è molto più lento. Se in una tratta la nave passeggeri ci sta un giorno, lì ce ne stai cinque. La gente a bordo non ha la possibilità di avere alcuna distrazione, cioè quando finisco di lavorare vanno in cabina perché non c'è altro da fare, a parte, vedrete, c'è una saletta comune dove loro ogni tanto si ritrovano per cantare karaoke o per rivedere 100 volte lo stesso film, perché quella hanno lì a bordo, non ne hanno altri, e quindi lo rivedono 100 volte. È come è cominciato a capitare anche a noi della troupe, cioè anche noi dopo 20 giorni cominciavamo, rivediamoci, abbiamo quello, rivediamoci quel film, noi che facciamo, rivediamocelo di nuovo, anche perché non avevi niente da fare, cioè fondamentalmente anche nel tu parti dall'inizio dove c'è un rallenti, sì, che già ti mette dentro un discorso di rallentamento, quindi un discorso di documentario comunque molto dilatato nei tempi, eccetera, è chiaro. Ma anche nel finale chiude con una serie di spazi, quindi anche un discorso anche di spazio oltre che di tempo, di spazi vuoti sulla nave, perché quello che eravamo abituati a vedere, perché ci sono 20 persone a bordo in una nave immensa, e dove noi spesso la mattina dai usciamo, proviamo a girare qualcosa, andavamo in giro e non vedevamo una persona per ore, cioè ma dove sta, dove sono, cioè dove è la gente, dove sono le persone, magari allora beccavi il cuoco a mezzogiorno e stava cucinando, però voglio dire, è tutto molto strano, astratto, e quindi ovviamente tutto questo entra di diritto nello stile del documentario, e quindi c'è uno spazio-tempo assolutamente dilatato, perché così è realmente la vita a bordo di quelle navi. Per Zavorra il discorso è diverso, perché lì le giornate di queste persone anziane sono scandite da tutta una serie di appuntamenti con il personale, però lì è un discorso probabilmente più filosofico, più anche lì astratto in qualche modo, sì, cioè nel senso che lì il discorso del tempo è un tempo che riguarda invece loro, quest'altro soggetto, cioè il soggetto persona anziana che vive là dentro e che aspetta di morire. Cioè, c'è a un certo punto una di loro che dice: io sono qui, la morte mi aspetta, dice questo, cioè fondamentalmente è quello che in qualche modo ti stanno dicendo anche gli altri, stanno aspettando di morire, cioè quello è il loro ultimo posto dove staranno nella loro vita, e quindi non è tanto una questione di, cioè non c'è una dilatazione del tempo nel documentario, è più compresso, è più ha un tempo più naturale, però ovviamente il discorso del tempo ha a che fare più sui soggetti, cioè sul loro avvicinarsi alla morte, eccetera. E poi diciamo che anche lì ci sono, se Cargo ha i soggetti che parlano, i marinai, gli ufficiali, ma soprattutto tanta nave, tanto viaggio, mare, eccetera, che è altrettanto protagonista del racconto, quindi la nave è anch'essa protagonista di questo documentario, e quindi ci sono queste aperture all'esterno dove tu vedi il viaggio, vedi la nave, eccetera. In Zavorra su 50 minuti ci sono 3 minuti di esterno e basta, perché noi siamo sempre dentro l'ospizio, e anche il vedere fuori attraverso i loro occhi Ad esempio, c'è un marinaio vecchio, anziano di 80 anni, che si siede davanti alla porta dell'ospizio, guarda fuori, e noi vediamo passare questa discafo, che è quello dell'Egadi, quello che va a Favignana, l'Evans, eccetera. Lui dice: vedi, quello è mio figlio che è capitano su quella nave, io tutti i giorni a quest'ora mi siedo qua perché vedo passare mio figlio con la discafo. Ma siamo da dentro, lo vediamo con i suoi occhi da dentro, c'è la porta a vetri e vediamo fuori così. Quando io esco fuori con la macchina da presa, esco fuori per, come vedrete, per raccontare delle immagini che non sono oggettive. Cioè sì, ce ne sono un paio che ti raccontano il posto che sta là in mezzo alle saline, ma sono immagini che appartengono alla loro memoria, sono immagini astratte, che riguardano il sogno, che riguardano probabilmente un punto di vista appunto di quelle persone che vivono lì dentro, non mio oggettivo, perché volevo far vedere qualche inquadratura fuori così, insomma. Sì. Ah, volevo chiedere anche a lui la stessa cosa sul tempo. Lui ha fatto il documentario sul pugile, però è un pugile di Latina che poi è anche la tua città, e tu nella tua biografia online hai scritto che Latina è una palude. Scherzosamente hai detto: sono scappato dalla palude per andare a Bologna a laurearmi al DAMS, se non ricordo male, fuggendo dalla palude, qualcosa del genere avevi scritto, sì. Mi pare qualcosa del genere. Nel tuo lavoro ho visto che anche tu hai un trattamento, sono comunque lavori che hanno tutti e tre un trattamento del tempo fuori dalla normalità di un documentario tradizionale, e quindi ecco, il tuo tempo direi che passa direttamente nel documentario, il tempo della provincia, fortemente il tempo della provincia. Ora, Mario Pisanti è il protagonista, va bene, il documentario sul pugile, sull'ambiente del pugilato, però Latina e i suoi modi di vivere, i suoi ritmi, il suo tempo passa moltissimo nel lavoro, al punto tale che nella recensione avevo scritto che si potrebbe anche dire che è un documentario sulla provincia, forse in un certo senso, oltre che su Mario, in un certo senso forse ancora più un documentario sulla provincia che su Mario, non per voler sminuire il ruolo di Mario come protagonista, che di fatto lo è, però questa impressione è molto forte, ecco, diciamo. Quindi entri dentro questo meccanismo strano e ti senti stranito di fronte a questa vicenda che avviene con dei meccanismi che forse sono quelli di una piccola cittadina, a cui però non sempre siamo abituati. Cioè, questa impressione è molto forte. Ecco. Vabbè, sì, come ti dicevo, il documentario è iniziato anche perché vedevo che ci potevano essere delle cose interessanti, proprio questo ritmo della provincia molto lento che ti prende e che magari non ti paralizza, un po' come anche per il protagonista del documentario, che proprio perché vive nella provincia impiega proprio tantissimo tempo nel cercare di raggiungere il suo obiettivo, che è quello di conquistare il titolo italiano dei professionisti. E proprio perché lui vive in una città di provincia, non ci sono magari quei manager, quelle persone che ti possono sostenere e che ti possono far accelerare i tempi nel raggiungere questo obiettivo. Quindi tutto il percorso di Mario è accompagnato da questo ritmo che la provincia, cioè uno quando deve emergere, difficilmente riesce a emergere nella provincia, ma deve andare o a Roma, deve andare o a Bologna, cioè no, non è che si è emerso a Bologna, cioè. sì, comunque. Infatti, tu da Trapani a Roma, cioè la provincia è un luogo molto, molto difficile da vivere e da conquistarsi anche, perché è una giungla, cioè ognuno cerca di guardare ai propri interessi, ma lo stesso si vedrà anche nel documentario con quelli che ruotano intorno a Mario, cioè sono pochi quelli che veramente ci tengono a farlo emergere. E tant'è che Mario poi deve ritornare nella sua vecchia palestra dove ha iniziato, dove comunque è gestita da un anziano manager che proprio per forza di inerzia va avanti, cioè perché è appassionato. E la storia di Mario, appunto, cioè tu dici che Mario sì, si racconta, però si racconta anche la provincia, cioè io ci vedo un po' nella storia di Mario anche un po' la storia di tutte quelle persone che vogliono emergere a livello teatrale, che ne so, cinematografico, televisivo, musicale, ho tanti amici musicisti che per riuscire a emergere sono andati a Londra, per esempio, perché l'Italia latina, cioè, non offre tanto. Se vuoi suonare latina, per esempio, ci sono locali dove suoni solo pezzi di cover, e ovviamente, cioè, il musicista non è che può suonare tutta la vita pezzi di cover, cioè, per realizzarsi deve andare in città più grandi. È un po' questo che anche il succo della storia di Mario, cioè vedere anche un po' oltre quello che non è solo la storia di Mario, ma anche una storia un po' personale di altre persone che magari si possono rispecchiare in questa storia qui. Sì. Una domanda sul video o cinema, come ti poni te di fronte al video contemporaneo, insomma al cinema contemporaneo, la documentazione, ma anche più in generale? Senti che qualcuno è più vicino a te, oppure, cioè, ti senti qualcuno vicino, oppure pensi di aver visto degli altri autori a cui pensi comunque di assomigliare, o comunque di avere delle caratteristiche? Cosa ci puoi dire sull'argomento? È un po' difficile, un po' imbarazzante. No, nel senso che sì, è un po' quello che registra per film. No, per carità, cioè, io ho fatto solo un documentario, non lo so. Sì, vado al cinema spesso, mi piace sperimentare. Mi trovo a mio agio nel documentario, forse. Perché, non lo so, c'è un po' più di libertà, ne parlavo prima con Vincenzo, rispetto a un'opera di fiction. Attenzione però, perché adesso nel cinema si usa anche lo stile documentario, quindi c'è più lo stile documentario adattato a una storia di finzione. Invece il documentario è proprio prendere, cioè, dalla realtà e seguirla, cioè, e vedere cosa succede, cosa si evolve all'interno della società, di una persona. E a me piace più questo, diciamo, il genere documentario, perché mi dà un po' più di respiro anche a livello un po' stilistico, anche di tempistiche. Invece nella fiction magari è un po' tutto molto serrato, cioè anche quando si tratta di fare un cortometraggio, comunque se nella mia piccola esperienza sempre, comunque, pure se tutti vengono gratis, spendi molti soldi, spendi comunque dei soldi, e poi quel risultato magari non è proprio eccezionale, non lo so, perché la sceneggiatura è un po' debole, o perché magari le persone non hanno dato il meglio, almeno questa è la mia esperienza. Invece nel documentario, avendo magari meno persone intorno, magari solo due collaboratori o tre, proprio quello, forse c'è un po' più la situazione in pugno, e quindi mi trovo un po' meglio a lavorare su questo genere, il documentario. Poi, non lo so, mi sento più a mio agio nel lavorare su questo genere. Allora, la stessa domanda la facevo anche a te. Anche riguardo alle nuove correnti, le famose nuove correnti, di cui poi abbiamo parlato anche nell'intervista fatta ieri, e comunque in generale, come si pone il tuo lavoro nei confronti di questo che abbiamo detto ieri, forse si può anche parlare, definire rivoluzione, forse, in un certo senso. Sì, può darsi. Allora, il discorso documentario finzione, intanto diciamo che ovviamente io non è che ho sempre pensato di fare documentari nella mia vita, voglio fare documentari. A me è sempre piaciuto il cinema, anch'io mi trovo ovviamente più a mio agio facendo documentari. Due settimane fa ho finito un corto di fiction, cioè dipende quello che mi gira per la testa. Se mi gira per la testa di fare un corto, giro un corto, mo non è che io voglio fare il documentario, oppure perché questi sono andati bene allora io continuerò a fare il documentario. Non è tanto quello. Ovviamente però c'è un discorso di più che vai più leggero, vai più libero, e questa leggerezza e libertà spesso ti permette di sperimentare di più, di giocarci di più col linguaggio. Tu quando vai a fare una fiction hai, non solo spendi comunque ovviamente di più, ma hai anche più gente attorno con cui devi fare i conti, ma anche linguisticamente sei più, hai più paletti, perché devi comunque costruire una storia, la devi raccontare ragionando su delle inquadrature precise, che poi anche, cioè puoi anche scavalcare il campo, quello lo decidi tu perché vuoi fare l'autore, scavalchi il campo, però fondamentalmente stai raccontando una storia e non ti puoi muovere da lì. Cioè quando invece giri un documentario con due persone, prendi la videocamera e giri come te pare, e allora lì forse in qualche modo, se uno ha un'idea dietro sempre, perché sennò fare come ti pare non è sempre limitativo, se tu hai un'idea, un concetto, un'esigenza, un'urgenza dietro, allora questa libertà spesso può arrivare a diventare una vera e propria sperimentazione, un vero e proprio discorso sul linguaggio nuovo, eccetera. E quello che dicevamo ieri nell'intervista, secondo me, e non è soltanto una questione di gusto personale, perché il mio gusto personale è sempre stato quello del cinema d'autore, eccetera, non è più solo quello, perché lo stanno dimostrando i premi nei festival importanti, lo stanno dimostrando anche adesso il pubblico che comincia ad andarli a vedere, però c'è un cinema, finalmente, secondo me, che viene, guarda caso, dal documentario. Facciamo i nomi, ok, i Fratelli Desserio, Alice Rohrwacher, quindi Corpo Celeste, il film del Desserio, Sette opere di misericordia, Io sono lì di Andrea Segre, La bocca del lupo di Piero Marcello, Le quattro volte di Michelangelo Frammartino. Ok, magari qualcuno conosce più o meno questi nomi, però sono gli autori italiani che per ora stanno sbancando i festival nel mondo, e che adesso stanno avendo, ricevendo l'attenzione anche del pubblico che comincia ad andarle in sala a vedere. Tutti questi autori vengono dal documentario, tutti questi autori hanno col documentario fatto opere autonome, indipendenti, fatti solo esclusivamente per una loro volontà ed urgenza, e si vede che è il cinema in Italia che per ora sta portando novità nel linguaggio. Quindi per quello, in qualche modo, tra virgolette, parlavamo di rivoluzione, è troppo grossa come parola, però è una cosa che sicuramente sta succedendo, ed è una cosa che io vedo anche nei documentaristi che non hanno esordito come quelli che ho elencato nell'opera prima, ma sono ancora documentaristi, ma io che grazie a questi documentari sono andato in dei festival e ho avuto la possibilità di vedere autori italiani ancora meno conosciuti di quelli, ovviamente, che si chiamano Antonio Martino, che si chiamano Carlo Michele Schirinzi, si chiamano così, sono nomi che non dicono niente, ma che stanno, secondo me, facendo una vera e propria rivoluzione, girando da soli con la loro macchina da presa e facendo delle cose che sono molto, secondo me, più belle di quello a cui siamo abituati e di quello che vediamo al cinema più comunemente, eccetera, dove tutto è sempre quello, dove tutto è sempre quel linguaggio là, quell'estetica là, cioè è quello a cui ci hanno abituati. Perché poi a questo, cioè, da vent'anni a questa parte, cioè, ci hanno abituati, hanno abituato il pubblico a quella visione, che è una visione che viene dalla televisione, eccetera, ma comunque è una visione, oppure comunque che viene anche da, magari non dalla televisione, ma anche dalla commedia all'italiana, da cose più importanti, ma che comunque continua a essere quello, anche nel linguaggio, anche nelle inquadrature, anche nel raccontare una storia. Loro invece raccontano altre storie, le raccontano in un altro modo, in una maniera diversa, originale, che sperimenta, che innova, quando sembra invece che non c'è più da innovare. Cioè, Michelangelo Frammartino, Le quattro volte, è un film dove non c'è una parola. Secondo me è il 2001 Odissea nello spazio dell'anno scorso. Cioè, è un film che è di un'esperienza visiva micidiale. È difficile, è duro. Perché è difficile? Perché noi siamo abituati a vedere un certo tipo di cinema, dove c'è ritmo, dove c'è montaggio fatto in un certo modo, dove c'è una storia con dei personaggi a cui tu ti immedesimi, eccetera. Ok, le quattro volte Michelangelo Frammartino non ti permette l'immedesimazione, perché non c'è immedesimazione. C'è un'esperienza visiva che è cinema assoluto, puro, e quindi poi vai a vedere Le quattro volte Michelangelo Frammartino, è il film più premiato nel mondo, cioè non in Italia, nel mondo, dell'anno scorso. Basta vedere, andare su internet e vedere, cioè dovunque è andato ha vinto premi, in America l'hanno osannato, cioè uno dei migliori film, cinque film dell'anno, l'hanno visto in quattro, però è una cosa che è una meraviglia assoluta. E dove vedi una cosa nuova, dove vedi una cosa che ti lascia a bocca aperta, che ti ricordi, che non il film che racconti, ah bello quel film, che significa dire bello quel film? Non significa niente, cioè deve comunque essere, secondo me, in qualche modo un'esperienza. Ma questo riguarda la nostra realtà, eccetera, ma se tu vai a guardare, vai più in alto, Vuoi andare a vedere chi è stato premiato a Cannes negli ultimi 10 anni? 2 volte ci sono le Dardenne, cioè Rosetta e L'Enfant, no? E che cos'è quello? I Dardenne vengono dal documentario, fanno film che sono al limite tra fiction e documentario, dove fondamentalmente si racconta più, cioè non c'è un filtro tra la finzione e la realtà, c'è realtà raccontata, ma in realtà cioè, e ovviamente è una cosa che colpisce ancora di più, cioè per quello cioè, stiamo parlando, anche quindi anche se vai più in alto e vai a vedere gli autori più osannati eccetera eccetera, ovviamente non hanno il pubblico di Spielberg, però anche quello è cinema, per carità, è cinema ed è importante che ci sia, questo è quello, però cioè, quello che effettivamente poi in qualche modo ti dà qualcosa in più. Perché ti dà qualcosa in più? Ti dà qualcosa in più, secondo me, perché questo tipo di cinema ti permette al pubblico, a me che lo guardo, ti permette di fare una riflessione in più. Se tu vedi un film dove tutto è raccontato e detto, c'è una storia che è quella là, eccetera, tu non ti immedesimi, vivi una storia, ti piace il film, eccetera. Quando tu vedi un film invece fatto in quel modo, hai tutto il tempo di... perché magari ci sono queste immagini, questa dilatazione, questa realtà raccontata nella maniera proprio più vera, dove tu prendi, insegui uno, lo insegui per 3 minuti, cioè che in un film normale non farebbero mai, taglierebbero, ma ti dà però, ci sono i tempi che ti danno il tempo a te di riflettere, di pensare, di fare conti con quella realtà, eccetera. Scusate. Si può parlare di nuova corrente per questa, cioè voglio dire, l'ultima corrente nel cinema, forse io non sono forse un grandissimo esperto, ma magari si potrebbe dire è stato il dogma negli anni 90, forse il dogma dei danesi, poi dopo non so se è arrivato, se c'è stato qualcosa dopo che possiamo definire una nuova corrente. Tutti si lamentavano in giro che il cinema non aveva più correnti, diciamo così, cinematografiche. Questa la possiamo considerare effettivamente una nuova corrente oppure no? Allora, no, il dogma è uno spot pubblicitario, fondamentalmente. Cioè, il dogma è per Lars von Trier, che io adoro, cioè, a me piace Lars von Trier, però è anche un grande furbo, cioè uno che per creare l'attenzione a tutta una serie di film, eccetera, crea il manifesto dogma che poi nessuno rispetta alla fine. Cioè, perché nessuno ha rispettato mai tutte e 10 le leggi del decalogo, del dogma, ma è una mossa pubblicitaria fatta apposta per creare attenzione nel mondo a una serie di film. È solo esclusivamente quello. Invece il discorso delle correnti, cioè i momenti in cui il cinema ha avuto più valore, è stato cioè, in Italia. Qual è il cinema più famoso nel mondo in Italia? Il neorealismo. Perché? Perché si veniva dal zero, dal grado zero, dalle ceneri della guerra, giusto? Ok, allora tu parti da un grado zero dove c'è un Rossellini che dice come faccio a girare questo film, rubo i soldi per girare Roma città aperta. Allora, dalla cenere, dal grado zero, dal nulla, uno inventa un nuovo cinema, inventa un nuovo linguaggio, eccetera, capito? Quello è la cosa. E adesso in qualche modo questa crisi probabilmente deve essere ancora più disastrosa questa crisi, perché forse dalle ceneri di questa crisi veniva fuori qualcosa di più potente. Fatto sta che questa crisi, che è una crisi che colpisce ovviamente anche il nostro settore, e la colpisce nel senso che tu non trovi il produttore che ti dai soldi, allora dici ragazzi che facciamo, come me col documentario mio, fatto con 3 persone che fanno questo lavoro come me, io faccio l'aiuto regia, il fonico mi ha fatto il documentario, fa il fonico nel cinema, l'operatore mi ha fatto il documentario, fa l'operatore, assistente operatore per Arnaldo Gadinari, cioè grande direttore della fotografia. Loro 3 sono fermi da un anno, dice ragazzi che facciamo, diamoci da fare, prendiamo, tu c'hai la macchina fotografica, ok, tu che hai il microfono, andiamo a girare. Ed è quello che più o meno questi autori che io citavo prima, quindi Vari Segre, Fran Martino, cioè tutti questi sono andati avanti così perché nessuno gli dava i soldi su quel progetto là, perché nessuno gli dà i soldi per fare 4 volte, capito? Mi vengono in mente altri titoli, però voglio dire, se ci sono delle idee, vuoi raccontare la realtà, sei onesto nei confronti di questo lavoro, vuoi farlo in un certo modo, eccetera, probabilmente come dire, come fu allora che Rossellini aveva quell'esigenza, capito, di andare a prendere soldi da chissà chi per fare quel film fatto con quattro persone e che poi è diventato il capolavoro della storia del cinema. Probabilmente adesso siamo in una fase non come quella, ovviamente non veniamo da una guerra, da una crisi così potente, però fondamentalmente c'è sicuramente in atto in qualche modo una sorta di rivoluzione di temi, di linguaggio, di innovazione che viene fuori proprio da un momento di crisi, perché dalla commedia all'italiana fino a 10 anni fa, fino agli anni 90, primi 2000, cioè c'è stato tutto un blocco di film, sono stati fondamentalmente una ripetizione, non c'è stata un'innovazione, perché c'era benessere fondamentalmente, ma meglio così, va benissimo, ok, però c'è stata anche tanta robaccia, diciamo la verità, tanta roba che era soltanto copia di altro, e quindi probabilmente sono stati questi momenti, secondo me, nella storia del cinema, che come negli esordi, cioè all'inizio della storia del cinema, cioè quelli perché stanno sui libri, perché era l'inizio di tutto, non c'era niente prima, e quindi non essendoci niente prima era tutto da inventare. Adesso sembra che dopo 110 anni di storia del cinema tutto sia stato inventato, ma invece ci si può sempre sorprendere, perché insomma, possono sempre rinascere nuovi linguaggi, e questo è quello che ti dà lo stimolo. Uno dei motivi potrebbe essere, delle cause scatenanti di queste nuove correnti potrebbe essere effettivamente la crisi, quindi secondo te, cioè, infatti ci si pone il dubbio del perché succede questo adesso. Io avevo pensato che forse era anche il digitale, le tecnologie, no, le nuove maniere di fare, non saprei dire perché, però mi sembra che il fatto che sia tutto cambiato rispetto a anche solo una decina di anni fa nel meccanismo di produzione, anche tecnologico di produzione, questo possa aver portato a aver modificato, appunto aver creato anche, insomma, dato là, insomma, a una nuova creatività effettivamente, non so. Sì, però il discorso sul digitale secondo me è relativo. È vero che ha dato la possibilità a chiunque, ha dato la possibilità di essere dato in mano a chiunque, però ovviamente dietro però ci deve essere sempre l'idea, o ci deve essere sempre un'intenzione, un'urgenza, un'idea forte, perché il digitale esiste da tanto tempo e col digitale sono state fatte tantissime stronzate, cioè non è io mi ricordo, ti dico una cosa che mi ha colpito, io faccio l'assistente alla regia, qualche anno fa ho fatto il ritorno di Cagliostro di Cipriano Maresco, quindi Franco Maresco, che è un personaggio molto particolare, non so se conoscete 5 TV e lo zio di Brooklyn, lui è, se Daniele è il tecnico che mette le luci e fa la fotografia, Franco Maresco è un personaggio molto particolare. Il primo incontro con lui, che io devo fare l'assistente, mi sono proposto, lui mi ha detto, ma tu, proprio direttamente così, senza chiedermi manco come mi chiama, ma tu che vuoi fare, regista? Io ho detto no, io voglio fare l'assistente qui per voi. Ma ah, sì, io tanto lo so che voi siete tutti quelli che avete la videocamera in mano e vi sentite tutti i registi, ma per raccontare che cosa? Per dire cosa? Dimmi che cosa vuoi dire tu. Ma io in realtà sono venuto qua perché voglio fare assistente alla regia sul tuo film, perché mi piacete, mi piace il vostro cinema, non voglio fare niente. Però mi è sempre rimasta questa cosa qua, perché sì, il digitale lo dà in mano a tutti, bello, ottimo, è una bellissima cosa, però ovviamente se non c'è una struttura dietro, appunto come dicevo, un'idea, un'esigenza. Cioè io questi documentari li sto facendo dopo veramente una vita che parlo di cinema, che ho studiato cinema, ho fatto per 12 anni e continuo a fare l'assistente alla regia, l'aiutoregia, e però questi qua l'ho fatto solo esclusivamente nel momento in cui ho avuto un'urgenza di fare, che non mi dormivo la notte, devo fare sta cosa, e sono andato a farla. Ma non è che io adesso, che questi qua sono documentari che sono andati bene eccetera, mo domani allora io sono diventato regista, cos'è la prossima cosa da fare? La prossima cosa da fare per me è andare su un set a lavorare, poi se un giorno mi verrà un'urgenza, e questo dovrebbe essere secondo me, perché se non c'è questa cosa qua è meglio che fare un'altra cosa. Senti, e per te il rapporto con il digitale e quindi le nuove tecnologie, le strumentazioni, tutto questo com'è? Il rapporto col digitale mi ha un po' inoltrato, diciamo, nel mondo del video, perché poi da lì ho iniziato pure a fare dei piccoli, a capire un po' questo meccanismo del montaggio, quindi era un po' tra virgolette semplice riuscire a entrare in questo, nelle tecniche proprio, entrare un po' dentro diciamo a come si usa una telecamera, arrivare poi all'edizione, all'editing. Quindi c'è stato un po' una cosa che mi ha fatto entrare, diciamo, in questo mondo, perché ho iniziato a fare a Bologna a fare teatro, poi da lì mi chiamavano piccole esperienze sui cortometraggi, e lì mi incuriosiva sto fatto che stava questo con la telecamera, mini TV, e riusciva a costruire un film di 10 minuti. Allora sta cosa mi ha interessato, e da lì poi ho iniziato pure io un po', prima con dei corti, dei piccoli documentarietti fatti anche con gli amici, e poi ecco, sentito questa esigenza, come pure diceva Vincenzo, di questa storia che poi ho filmato, cioè non è che ho l'idea di portare la mia idea di regia, chissà quale idea di regia, cioè è giusto, a me mi appassiona vedere, conoscere la realtà, e il fatto di magari saper usare uno strumento come una videocamera e poi fare anche il montaggio, cioè, però io il montaggio non sono un montatore, cioè mi permette appunto di magari di ammortizzare i costi poi sull'editing finale, magari vado già con un pezzo montato e poi col montatore lui magari mi dà un taglio più bello, non lo so. Quindi sì, cioè, mi ha un po' il digitale mi ha un po' portato in questo mondo. E come, no, una cosa che mi colpiva, che diceva Vincenzo prima, era questo fatto di tornare un po' nella depressione totale e di rialzarci magari facendo ritornando a fare del cinema un po' più riconosciuto, come gli autori che hai citato, no? E io penso che alla fine molte cose, le cose belle si scoprono proprio intorno a noi. Cioè Vincenzo prima, cioè, come me, pure lui ha filmato delle cose che gli appartengono un po', no? Cioè il papà, il nonno, l'ospizio che si trova nel tuo paese, nel paese dove sei nato, Mario che vive nella mia città, quindi sono tutte cose che hanno un'esigenza di essere raccontate, perché pure secondo me, cioè, quello che fanno vedere nei film italiani non mi rispecchia, perché è un mondo, cioè, fatto di un po', non vorrei sa un po' cioè mondo borghese, cioè una parola forse sbagliata, però è un mondo così, cioè visto nella mente di qualcuno, perché secondo me se uno esce per strada le cose sono un po' diverse. E quindi credo, forse non lo so, però alcune delle cose più belle escono proprio guardandoci intorno, cioè avendo la curiosità di conoscere proprio quello che succede intorno a noi. E quindi ecco, collegandomi al digitale adesso, magari forse avendo una telecamera, pure una telecamerina, e avendo la sostanza dietro, si riesce a creare qualcosa di interessante. Io volevo sentire un po' l'opinione di qualcuno dei miei amici riguardo al video, visto che più o meno tutti ci lavorano, qualcuno si occupa anche di video art, e che non è cinema, però comunque sia sempre immagini solo. Che faccio? Vi interrogo io? Allora, le domande sono molto brevi, mi hanno ispirato un po', da entrambe le discussioni, sono anche abbastanza legate. Cioè la prima, mi domando, questa lista di lavori che hai citato, molto, che hanno avuto questo grosso riscontro a livello mondiale, appunto, ecco, che circolazione hanno? Perché che circuitazione hanno? Insomma, perché in realtà qui a Firenze, dove appunto vivo, sembra molto difficile riuscire a trovare momenti o comunque luoghi in cui si possano vedere cose di questo tipo, che non siano proprio quelle del cinema standard classico, che a me onestamente annoia molto, infatti non sono un grande appassionato di cinema, ma proprio per questo. E quindi la prima domanda è questa, la seconda collegata riguarda un po' il fatto che, avendo un pubblico così limitato, mi domando, questa domanda per voi che lavorate, presumo che sia molto difficile anche trovare qualcuno disposto a produrvi, perché immagino che proprio per lo stesso motivo, insomma, non ci sia molto interesse a produrre un tipo di prodotto artistico che magari poi ha una circuitazione molto limitata e comunque rimane comunque di nicchia. E l'ultimissima cosa sulla parte tecnologica, è vero che oggi è possibile, no, grazie alle nuove tecnologie, che chiunque possa avere la possibilità di autoprodursi, però non pensate che questo alla fine aumenti anche il rumore, cioè nel senso che vengono prodotti talmente tante cose che anche le piccole cose di grande qualità scompaiono. Mi puoi ripetere la terza? Ok, allora andiamo per... Allora, i film che ho citato sono stati distribuiti quasi tutti in sala, ovviamente soltanto nelle grandi città, probabilmente a Firenze non è capitato che qualcuno di loro non è passato, magari forse soltanto Roma, Milano, Torino, cioè hanno ovviamente, escono in genere tra le 10 e le 20 copie in tutta Italia, quindi hanno questo purtroppo destino della distribuzione in sala, quindi al grande pubblico è più difficile ci arrivano, perché quelli fanno ovviamente il loro passaggio ai festival. Ai festival ottengono tutta una serie di riconoscimenti e da lì partono spesso delle distribuzioni in altri paesi fuori dall'Italia, che è dove c'è più attenzione. Quindi tutti questi sono in Francia, sono stati distribuiti ovunque, in questi paesi qua dove c'è più attenzione a questo genere di cinema, più abitudine, pubblico più abituato a questo genere di cinema, lì ovviamente hanno una distribuzione più ampia. Molti di loro però sono anche usciti in non video, ad esempio La Bocca del Lupo sta su Feltrinelli, vai a una Feltrinelli qualsiasi, chiedi La Bocca del Lupo, te la trovi. Le quattro volte credo lo stesso, se c'è una Feltrinelli con i video dovrebbero avere anche le quattro volte. Io sono lì di Andrea Segre, continuo a essere in sala a Roma, ad esempio. Adesso è stato anche a quattro candidature al David, cioè adesso probabilmente uscirà in una seconda sala a Roma. Che ne so, poi chiamo nomina. Cioè, quello dei Fratelli De Serio, loro sono torinesi, a Torino continuo a essere in sala. Ovviamente in altri cinema, a Roma l'hanno tenuto due settimane e l'hanno tolto, purtroppo. Però poi ovviamente la loro fortuna è più quella della distribuzione, purtroppo, fuori dall'Italia, o comunque il successo ai festival, che poi ti porta ad avere distribuzioni locali nei posti dove viene premiato, eccetera eccetera. È ovvio, sì, sono opere che hanno una distribuzione più difficile, così come è stato difficile per loro arrivare ad una produzione. Seconda domanda: la produzione è ovviamente difficilissima, ci arrivi piano piano con questi successi nei festival, eccetera, eccetera. Ad esempio, i De Serio, prima di arrivare all'opera prima, hanno fatto questi 4-5 tra documentari e cortometraggi, che hanno vinto due volte Torino, che hanno vinto, che erano in concorso, ad esempio, all'EFA, cioè il premio europeo. Zaccaria, il loro cortometraggio era uno della cinquina del premio europeo del cinema. Cioè, stiamo parlando di cose appunto che uno non conosce, ma che stanno là. E quindi poi a un certo punto il produttore ha detto: ok, va bene, voi avete fatto 5 robe che praticamente hanno tutti strapremiato, facciamo un film. Quindi e così è stato anche per Andrea Segre, e così è stato anche per... Non è stato così per Alice Rohrwacher, che ha fatto Corpo Celeste praticamente quasi dopo due documentari, però fondamentalmente ci sono arrivati piano piano, faticando prima con dei lavori che non avevano produttori, non avevano distributori, ma questi riconoscimenti che hanno avuto li hanno portati poi ad aver avuto la possibilità di presentare un loro progetto e di aver avuto poi la produzione, perché la produzione ovviamente marcia e batte su quello che, insomma, che riesce a commerciare, quindi è tutto così. La terza domanda non mi ricordo bene. Il rumore, la tecnologia? Il rumore di fondo. Sì, che sì. Ma per lo stesso motivo, insomma, non in realtà, cioè nel senso che ovviamente tanti hanno possibilità di fare tante cose col digitale, quasi tutti quelli che fanno questo mestiere hanno la loro macchina, eccetera. E poi questi appena citati, che pure loro lavoravano con questi mezzi poveri, digitali, eccetera, hanno trovato una loro voce, una loro strada, una loro fortuna. Altri probabilmente altrettanto bravi come loro hanno avuto più difficoltà, non c'è dubbio su questo. Io vado ai festival, vedo documentari che non hanno niente di meno rispetto a documentari fatti da loro, ma che però per un motivo o per un altro l'hanno visto soltanto le quattro persone in sala, come siamo noi adesso in questo momento, cioè quattro persone in sala vedono quel documentario, rimangono estasiati, però purtroppo si ferma lì perché hanno meno fortuna, quello sì. E quindi fondamentalmente poi il rumore lo fanno quelli che vengono fuori, tutto il resto rimane non rumoroso, rimane in silenzio, rimane più sotterraneo. Purtroppo, cioè, ci sono tante cose belle che rimangono così, e spesso quelle più, ancora più sperimentali, per esempio uno di quelli che ho citato prima, di quelli che sono rimasti ancora a fare documentari che non hanno esordito, questo Carlo Michele Schirinzi, che in realtà sta esordendo, sta facendo un'opera prima, speriamo che la distribuiscano, perché poi molti fanno l'opera prima e non vengono totalmente distribuite, E lui è uno che fa della roba totalmente sperimentale, proprio è praticamente videoarte la sua roba. A Torino gli danno il premio come miglior corto, cioè immediatamente. Se tu vai a vedere il suo nome, vedi che a Torino ha vinto due volte. Però è talmente tanto sperimentale che se io li vedo, io le adoro quelle cose là, ovviamente, ma che poi alla fine i distributori dicono, ma io che faccio questa cosa qua? Probabilmente quando lui ne avrà fatte 20... faranno un cofanetto Carlo Michele Schirinzi e andrà così, oppure li faranno come li hanno fatto di recente, una retrospettiva in Puglia, hanno fatto all'interno di un grande festival, hanno fatto una retrospettiva su di lui, e allora purtroppo però rimangono solo quelle le occasioni di vedere quelle cose là, cioè andare appositamente lì per vedere quella cosa là, e se uno non lo conosce perché ci deve andare a vedere appositamente quella roba là? Oppure Simone Massi adesso premiato l'altro ieri come miglior corto ai Davide di Donatello del 2012. È un cortista di animazione che secondo me è un genio, si chiama Simone Massi, fa dei corti di animazione, ne ha fatti 30, ne ha fatti un'infinità, hanno vinto qualsiasi cosa, adesso finalmente il David li riconosce questo merito, ma lui non ha avuto, cioè non è stato mai, ovviamente, dove vai al cinema col corto di animazione, dove vai in sala, dove vai al grande pubblico? Adesso probabilmente saranno subito già pensando di fare il cofanetto con le sue opere, oppure probabilmente se uno va appositamente dei festival dove c'è anche lui va a vedere le sue cose, se vai su internet le sue cose le trovi e rimani incantato. Ricordatevi Simone Massi, mettetelo su YouTube e vedete che cosa fa quest'uomo. È un grandissimo, un genio del cortometraggio, probabilmente il miglior animatore italiano, e fa queste piccole opere d'arte, e finalmente Davide Donatello si accorge di Simone Massi. Cioè voglio dire, un po' così, no? È nebulosa la situazione. Però c'è tanta gente che veramente ha una grande forza, e piano piano magari chi ne ha di più, chi è più capace, perché poi molti altri invece decidono di fare altro, non ce la fanno a stare appresso a questa cosa, giustamente, è faticoso, è così. Invece c'è quello che Simone Massi, che vive in campagna, mangia col suo orto, continua a disegnare, a fare animazione, e poi a un certo punto, dopo anni e anni e anni e anni, arriva il Davide Donatello, cioè, un po' così. No. Magari, diciamo, per quanto riguarda la tua produzione, a parte il fondo della Film Commission di Latina, ma tu in sostanza hai anche una casa di produzione, cioè voglio dire, ci collabori in ogni modo? Magari ci parli un po' della Daimon, del tipo di iniziative che fate, di quelle che state... Diciamo questo soggetto che ho scritto di Mani Fasciate è stato scritto insieme a un altro autore, che è Emiliano Pappacena, che ha questa piccola casa di produzione, si chiama Daimon Production, e si occupa prima di tutto di reportage. Infatti su internet ci sono alcune cose, sono andate anche in Rai, mondo a colori, diciamo prevalentemente sull'integrazione, poi sì, diciamo questa è una piccola realtà che cerca di, di lavorare, sì, di raccontare nel suo stile problematiche dell'Italia e anche fuori, che riguardano anche l'Europa. Sì, cioè, questo è più che altro il... Manifasciate verrà distribuito? No, per adesso ancora no. Adesso, vabbè, stiamo cercando di proporre ai festival, poi si vedrà. È finito da poco, in dicembre, diciamo gennaio, ho finito di fare la post-produzione audio, quindi c'è ancora bisogno di essere un po' mandato in giro. Volevi chiedere qualcosa? No, io volevo fare un'osservazione, insomma, legata un po' alle considerazioni che avete fatto voi sul cinema, no? Avevo due domande, insomma, una curiosità personale riguardo al panorama, così, il deserto, no? Di cui parlavi prima. Secondo voi, per esempio, dove si colloca il cinema di Mario Martone? Cioè, perché si è parlato degli anni 90 come di un periodo in cui in Italia c'era un torpore generale che continua. Però ecco, ci sono state poi delle esperienze cinematografiche di autori al limite, insomma, probabilmente con un'esperienza anche plurima, come può essere stata esperienza teatrale, anche da cui tu dicevi che sei partito per poi arrivare al cinema, e Martone è un caso, no? Questo. E volevo sapere, appunto, cioè, siccome non si parla più di, non esiste una scuola, non esiste un movimento che ha caratterizzato questi anni, o almeno un movimento così storicizzato, però in realtà poi ci sono dei casi, no? Sporadici che hanno avuto una sua personalità e anche un suo successo. Questa è la prima cosa. E l'altra è una considerazione più generale, ecco, riguardo a questa visione pseudo-borghese o comunque leggera che il cinema ci propone in questo momento. Però ecco, la considerazione da fare forse è che esattamente, se dovessimo fare un parallelo con la storia del cinema, è come se rivivessimo in qualche modo l'esperienza dei telefoni bianchi, cioè del decennio dal 36 al 43, 44. Cioè, il fatto che tutto sommato quello che si cerca è questa leggerezza, cioè è questo stato di sogno, cioè del telefono bianco, del telefono che nessuno aveva a casa, perché tutti avevano il comune telefono nero, e quindi questa agiatezza, questo poter parlare di cose che anche si ambivano in una società in cui invece in realtà era fatta anche di tabù, si prospettavano al cinema. In realtà poi, se si pensa a queste persone che hanno lavorato in questo cinema, che è stato un cinema estremamente commerciale, poi in realtà si vede che c'era Camerini, cioè c'era De Sica, ci sono state persone che poi hanno fatto Sciuscià, che hanno fatto tante altre cose dopo, no? E quindi, se dovessimo fare tutto sommato un paragone, è anche vero che certe volte è anche un'esigenza di sopravvivere, cioè della stessa esigenza di cui parlavate voi, cioè si fa anche una produzione diversa perché quella produzione, cioè, ti permette anche di essere nel sistema, perché è anche difficile essere sempre fuori dal sistema e pensare poi, cioè, si può fare anche l'orto, giustamente, qui di gente che fa l'orto ce n'è tanta, però dico, cioè, tutto sommato è anche vero che cioè, forse anche ripensare a un compromesso anche alle qualità di chi lavora su un altro genere di film. Con questo non è che difendo, cioè condivido e condivido quello che voi fate, e mi piace anche il coraggio, no? dei nuovi registi. Però tutto sommato, ecco, c'è da pensare che non ci sono due nette categorie, come non ci sono state. Cioè, la storia del cinema è fatta di persone che prima di avere una... veramente una gratificazione al di là del festival, se pensiamo allo stesso Visconti, alla Terra Trema, no? Cioè, voglio dire, un film che nessuno ora direbbe che non è un capolavoro del cinema, cioè, produzione, diffusione zero, insomma, dopo anni l'hanno riscoperto, no? E quindi, cioè, tutto sommato poi, cioè, il ciclo della storia cioè Vico ci insegna che poi è così per tutti, ecco, non è che forse noi viviamo un periodo in cui siamo fuori dal sistema. C'è una scoperta nuova delle nuove tecnologie, dei nuovi mezzi, c'è una facilità di comunicazione che forse ci permette molto più di prima di esistere in qualche modo, se non nel nome, nei video, in internet. Cioè tu vieni, ci parli di 4-5 nomi, di 10 registi, probabilmente si prende appunti e cioè, anche il 50% di noi che va e li cerca o fa una ricerca o li compra o li vede o cerca un festival, c'è una comunicazione diversa, no? Quindi questo per lanciare anche una parte, una forma di ottimismo a fare quello che viene fatto, cioè perché poi tutto sommato tutto quello che voi fate non è poi così fuori dalla terza generazione di neorealismo, voglio dire, no? Cioè tra quello che dicevi te, tra il vero neorealismo e voi, cioè noi, la nostra generazione, c'è già stata, no? Una strada di persone che hanno cercato di fare questo e l'hanno fatto anche. Era più. Ma in realtà lei ha fatto una riflessione, non una domanda. Io posso fare. Cioè, quello che ti voglio dire è che non vorrei essere frainteso. Io non ho detto che questo qua, il cinema, quello di cui ho parlato fino adesso, il cinema si dovrebbe fare e c'è un altro che non si dovrebbe fare. Cioè, io stavo dicendo quelle cose rispetto a eventuali novità, capito, di linguaggio, di stile, eccetera, che è dato soltanto da queste cose adesso, in questo momento, da quegli autori, eccetera. Ma quell'altro cinema lì, quello tra virgolette più commerciale, ha prodotto autori giganteschi, deve continuare a esistere, è quello che continuerà a esistere più di tutti gli altri, è quello che nella storia del cinema è sopravvissuto più di questi altri qui, che hanno portato l'innovazione, eccetera. Cioè, chi ha portato l'innovazione nella storia del cinema è entrato e uscito, mentre quel cinema lì, che soprattutto quel cinema addirittura di commedia, cioè quello di sogno, cioè, allora, il cinema nasce da due persone, Méliès e Lumière, che hanno dato due strade al cinema che sono rimaste quelle da 110 anni. Cioè uno è il cinema che è il sogno, che è il cinema di Méliès, no? che poi ha prodotto immensi autori, da Fellini a quello che ti pare, eccetera, o comunque il cinema di fantascienza, Spielberg o quello che ti pare. Questo è Méliès, e poi c'è i Lumière che filmano, mettono la macchina là per filmare un treno che arriva alla stazione, che colgono la realtà così com'è, senza costruire nulla. Invece Méliès ricostruiva, ok? Quindi c'è un cinema che costruisce, un cinema che osserva la realtà. Il cinema che osserva la realtà ha prodotto un altro genere di cinema. Dopo, tutte le altre sono declinazioni di queste due cose qui. Ovviamente Méliès e la sua strada ha portato a un cinema più commerciale, a un cinema più commerciale, brutta come parola, ma più adatta al pubblico, più vicina probabilmente al pubblico, ma relativamente, perché il discorso è che è complicatissimo, perché è lungo, parte, però fondamentalmente, cioè non è che in questi 60 anni c'è stato il deserto, no, ci sono stati autori in Italia giganteschi, fondamentali. Martone è un grandissimo autore italiano, cioè non è che i Desiderio sono, cioè il cinema di Desiderio vale di più o di meno, sono due cose diverse, solo che uno lavora più su un trovare nuove strade, uno lavora più su delle cose più definite, preimpostate, che la storia del cinema, il linguaggio del cinema gli ha dato in eredità e che lui utilizza per raccontare una storia. Poi Martone, insomma, viene dal teatro e quindi c'è un lavoro gigantesco quando lui va a fare un film. Cioè, non è uno che si improvvisa, si vede. Cioè, i grandi autori si vedono sempre, c'è sempre un motivo per cui vengono fuori più di altri, c'è sempre un motivo. E Martone, il lavoro che ha fatto, che continua a fare con il teatro, cioè poi ovviamente portandolo al cinema ha una sua, cioè, porta una sua idea, una sua originalità, ma anche di stile, non tanto di linguaggio, di come metto la macchina da presa, che la metti come tutti gli altri. ma di stile proprio, di come usa la recitazione, come fa usare la recitazione, o di messa in scena. Cioè, e quindi, per carità, ma c'è lui, perché tu hai accennato a lui, ma ce ne sono altri 3 milioni in questi ultimi del neorealismo in poi. Che però io stavo dicendo che il momento del neorealismo, come questo piccolo momento adesso che non è quello, ma in qualche modo sono comunque dei momenti dove veramente da un grado zero tu cominci da capo, e quindi cominciare da capo significa trovare dei nuovi linguaggi. Per quello il neorealismo è imitatissimo da tutti, e tutti continuano a dire in Italia, se Woody Allen l'altro ieri dice io il cinema italiano, il neorealismo, continuano a parlare di quello, cioè ti parlano tutti di quello, ma perché? Perché c'è un motivo, perché hanno gettato delle basi fondamentalmente che poi loro hanno preso e hanno adattato alle loro esigenze, al loro cinema. E questi piccoli autori che adesso vengono fuori stanno gettando una nuova piccola, che non è quella potente, quella là, ma una piccola base per parlare di nuovi linguaggi, ma non perché, ma rimarranno sotterranei, rimarranno lì, capito? Non saranno mai per il grande pubblico. Il cinema per il grande pubblico è necessario, ci sarà sempre, deve continuare ad esserci, perché appartiene, perché comunque cinema, perché appartiene al sogno, è tutto più costruito, eccetera. Cioè, voglio dire, fondamentalmente quello che però manca probabilmente, come fu il neorealismo, non è soltanto una questione di stile o di nuovo linguaggio, è una questione di quello che racconti anche. Quello andava per strada, c'erano le macerie, racconta la realtà, capito, che ne so, i paesà, cioè la realtà di queste persone, ovviamente scritta, però scritta con quattro appunti, perché questa aveva in tasca Rossellini, quattro appunti, e tu in quel contesto racconti una storia vera. Cioè adesso storie vere se ne raccontano meno probabilmente, cioè nel senso che, voglio dire, una cosa è Rosetta delle Ardenne, dove loro scrivono la storia, la sceneggiatura, e inseguono una ragazza che ha una crisi, capito, che non trova lavoro, cioè, l'hanno girato 20 anni fa, ed è quello che probabilmente un autore italiano dovrebbe raccontare adesso, cioè, perché è quello che c'è nella realtà, che non c'è il, capito, la storiella così, che va bene, perché la gente vuole andare anche a non pensare alla crisi, a vedere un film. Ok, giusto, il cinema è soprattutto questo, va bene, però ci deve essere anche l'esigenza di raccontare la realtà di quello che ci sta accadendo, e quello lo fanno in pochissimi, e non si capisce come mai, perché stanno succedendo delle cose e pochi lo fa, il documentario lo fa, il documentario sopperisce a questa mancanza del cinema raccontando la realtà. E lo stanno facendo i documentaristi italiani, cioè li va a vedere solo ai festival, però il festival le va a vedere, che ne so, Stefano Savona, e ti parla che è andato a Piazza Tahrir e ha girato Piazza Tahrir. Cioè, un film su Piazza Tahrir dov'è? Dimmene uno, non c'è. Cioè, c'è lui o il suo documentario che ha girato una storia di Piazza Tahrir, o che ne so, cioè, per dirne una, ma tu vai a vedere documentari, vai a vedere i documentari di quello che accade, veramente di quello che accade, di quello che sta succedendo. Ma nei film poco se ne vede. Sì, aspetta. Dicevo, sicuramente, cioè, condivido la vostra posizione, non era una critica nei confronti della vostra posizione, quello che dicevo io. No, di Martone. No, dicevo che forse tutto sommato questo neorealismo latente non si è mai perso, cioè il neorealismo così, insomma, in modo improprio si utilizza questo termine latente, non si è mai perso in Italia, cioè c'è sempre stato un tentativo da parte di Mosche Bianche a cercare di raccontare la storia, no? Allora, l'alternativa in questo momento è che nuovi mezzi, anche più economicamente più raggiungibili, no? Per un artista, per un regista, cioè, lavorare per esempio sul documentario è sicuramente economicamente più semplice rispetto ad avere una produzione cinematografica, no? Ne convenite, è così. E quindi tutto sommato dico, ecco, la mia domanda è questa: se ci fosse la possibilità, no? Venendo dall'esperienza che avete fatto voi, per esempio, se ci fosse la possibilità di poter avere una produzione, no? Che non ti permette di fare l'aiuto regia, ma ti permette di fare la regia di un'idea tua. Tu parlavi prima di un'esigenza interiore di fare questi documentari che ha fatto, affondare nella memoria, fare un percorso, no? Però è una cosa che è stata un'esigenza interiore, e poi il tuo lavoro è l'aiuto regia. Ecco, se ci fosse veramente la possibilità a un certo momento di poter realizzare qualche cosa in pellicola invece, cioè di fare del cinema, che cosa racconteresti? cioè, io quando il momento se avevo 1.000 euro vado al direttore della fotografia e dice come giriamo 1.000 euro con la mia macchinina, se ce l'abbiamo 100.000 dico allora Bruno come giriamo, cioè, allora io girerei, prendiamo il 16 mm per me a me non mi importa, per il discorso pellicola o cioè, mi importa quello che vado a raccontare, ovviamente cosa vado a raccontare al momento, in questo momento ovviamente un paio di idee ce l'ho, però quella che mi ossessiona di più, semplice, così come è stato quelli, cioè adesso sono lì che girano per la testa, ma non c'è una che mi ossessiona più di un'altra. Quando non comincerò come è stato questo a non dormire la notte, allora girerò quelli, ma adesso non so che cosa. Sicuramente cercherò di fare questo lavoro, cioè voglio dire, non è che questi documentari parlano della crisi o parlano della rivoluzione in piazza, ma l'approccio usato per raccontare queste storie è un approccio di osservare la realtà. Quindi se io comunque devo avere una storia di finzione, che ovviamente tu costruisci, quindi non, cioè, lo stai facendo osservando la realtà, ma comunque la scrivi la battuta, non ti viene detta in quel momento, la scrivi tu, allora però forse per un mio metodo, un mio gusto, cercherei di farla, di fare una storia alla Dardenne, di fare una storia alla, cioè voglio dire, quelli sono i miei esempi, no? Quello è il cinema che mi piace, è un gusto mio ed è un cinema dove ovviamente c'è una sceneggiatura, ma cerca anche di cercare di avere di svelare la realtà così com'è il più possibile, anche se è finzione. Ecco, questo cercherei di fare. E quindi mi verranno a vedere in quattro a Firenze, non uscirà, però io sarò contento perché avrò vinto il premio. No, perché poi alle 8 c'è in programma la presentazione di Mani Fasciate, quindi mi sa che sono passate le 7:30 forse, e quindi magari scaleremo un po' la presentazione di Mani Fasciate, facciamo un po' di pausa.